New Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Ignazio. Cognome: Corrao. Età: 32 appena compiuti. Nato a? Nato a Roma. Eletto in? Eletto in Sicilia e Sardegna. Con quanti voti? Con circa 72.000 voti di preferenza. Partito politico? Movimento 5 Stelle. Gruppo politico? IFDD. Segni particolari? Penso la mia enorme bellezza, simpatia, sicilianità anche. Quante lingue parla? Ne parlo 3, credo bene, l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, 2, così così, francese, portoghese. Competenze europee in 10 parole. Cooperazione internazionale, giustizia, affari interni, immigrazione, diritti umani. Ci siamo arrivati a 10 parole. Benvenuto nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Europarlamentare, portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento UE, blogger, globetrotter e pacifista. Quale ruolo le calza meglio? Beh, sono tutti ruoli che mi calzano bene. Penso che iniziamo in ordine, partiamo dal fatto che sono sicuramente un pacifista, ma faccio il portavoce del Parlamento Europeo, blogger continuerò ad esserlo perché mi piace scrivere, e globetrotter è una parte integrante di me, quindi viaggio, mi muovo, conosco, capisco e cerco di portare avanti le proposte con il modo migliore. Disegno di legge Cirinnà e unioni civili, tema caldo in Italia e in Europa? Beh, in Europa forse già appartiene al passato, è l'Italia che è in ritardo nel riconoscere quelli che dovrebbero essere dei diritti ormai garantiti a tutti. L'aggiornamento dei limiti per le emissioni dei veicoli ha ottenuto il via libera, vittoria dei costruttori contro l'ambiente? Assolutamente sì, ed è stato un provvedimento inaccettabile che qualcuno tenta di difendere in modo davvero improbabile. Social network, strumento per fare politica? Assolutamente sì, e penso che sia lo strumento che utilizzo meglio per fare politica. Pensa che nel nome dell'Unione si sacrifichino tipicità locali? Sì. Assolutamente sì, questo è uno dei motivi per cui l'Unione Europea non funziona. E la produzione della piccola media impresa? La produzione della piccola media impresa viene sistematicamente sacrificata per fare favore alle grandi multinazionali, che sono quelle che riescono più di tutte a fare pressione, fare lobbying sulle politiche dell'Unione Europea. Doppia sede del Parlamento, Bruxelles e Strasburgo, perché? Perché è previsto per trattato e i francesi non ci rinunciano neanche sotto qualsiasi forma di pressione. È una cosa assurda, perché è uno spreco di soldi, di energie, ed è una cosa fastidiosa per tutti. I fondi europei meglio investiti? Beh, i fondi europei meglio investiti probabilmente sono quelli che hanno fatto sviluppare delle regioni povere dell'est Europa o del nord. Quelli sprecati? Quelli sprecati penso che la Sicilia sia al top in questa classifica. Come si fa a protestare con l'Europa? Beh, ci sarebbe lo strumento delle petizioni, però forse è più facile scrivere una mail ad un portavoce del Movimento 5 Stelle. Musica rock, pop o classica? Io sono chiaramente rock. Tra 10 anni come si vede? Beh, in un anno e mezzo mi è diventata la barba bianca. Probabilmente tra 10 anni mi vedo anche con i capelli molto bianchi. Però spero ancora con la stessa voglia di combattere. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.